Radio Virus presenta Rosa di Sera. Da tavolo transfemminista queer Macao, Carlizia, la vocina che ti vizia, legge favole per diventare di tutti i colori che volete. Storia di Panini di Adela Turin. Il villaggio di Ita era così piccolo, ma così piccolo che nessuno si era mai preoccupato di dargli un nome. Non che fosse un villaggio di poche case, anzi, le case erano migliaia e migliaia, ma erano piccolissime. Intendiamoci, erano casette confortevoli, con un soggiorno con il camino, un bell'orologio al muro, una cucina con un forno per il pane e varie camere da letto. Semplicemente erano case piccole perché erano abitate da persone piccolissime. Ita, per esempio, era grande come la mia mano. E la mamma e le sue sorelle maggiori erano appena più grandi. E la nonna, le zie, le cugine, le prozie e tutte le altre abitanti del villaggio erano anche loro minuscole. E così il villaggio era tanto piccolo che nessuno aveva mai pensato di dargli un nome. Nelle piccole case del villaggio senza nome, le mamme e le bambine lavoravano fin dalla mattina presto a preparare i panini. A mezzogiorno e alle 7 di sera, davanti alla porta di ogni piccola casa, c'era un grande panino, largo quasi quanto la porta, pronto a partire per la grande casa degli iscritti. Alcuni dei panini erano al salame e altri al formaggio, altri ancora con la frittata, oppure con il salmone, o con il pomodoro e la maionese, o con il prosciutto e i cetriolini. Ogni mamma desiderava che il suo panino fosse il più bello e guardava sospettosa e inquieta quello della vicina, sperando che non fosse imbottito di qualche polpetta deliziosa che avrebbe fatto sfigurare la sua galantina. E così i panini, accuratamente avvolti, si impilavano sui camioncini che con l'ultimo tocco di mezzogiorno e l'ultimo delle 7 partivano sballottanti verso la grande casa degli iscritti. Ed erano appena partiti che già le mamme e anche le bambine cominciavano a prepararne altri. Di tutti i bambini del villaggio, Ita era la più curiosa. «Che cosa succede, mamma, nella grande casa?» chiedeva. La mamma, che era anche lei poco informata, le rispondeva: «Ma Ita, come sei noiosa! Pensa piuttosto a essere una bambina carina e ubbidiente, a non sporcarti e a imparare a far bene i panini. E smettila di fare domande sciocche». Ma Ita voleva proprio sapere e continuava a chiedere in giro: «Che cosa fanno i papà nella grande casa?» «Fanno i documenti urgenti e importanti», rispondeva la nonna. «Fanno le lettere raccomandate indistinta», diceva la zia. «Fanno i piani a medio termine», precisava la cugina. «Fanno i bilanci e le statistiche», spiegava la vicina. Sempre più confusa, Ita continuava a fare la sua domanda. «Ma che cos'è tutta quella roba che fanno i papà nella grande casa quando non mangiano i nostri panini?» Ma nessuno glielo sapeva spiegare veramente. Così, un giorno Ita decise di nascondersi nel camioncino e di andare a vedere con i suoi occhi che cosa succedeva nella grande casa. Con l'ultimo rintocco delle 12, Ita fra un panino di tacchino e un altro di acciughe, partì nel camioncino sballottante verso la grande casa e mezz'ora dopo ne scoprì, all'orizzonte, la sagoma altissima. Migliaia di finestre, centinaia di piani. A Ita la casa sembrò decisamente bella. Mentre i panini venivano scaricati con cura, Ita si arrampicò sugli scalini che salivano fino alla grande porta. Nel vestibolo c'era un signore, vestito di rosso e d'oro, seduto a un grande tavolo. Sul tavolo c'era un cartello. Informazioni. Ita pensò: che meraviglia! Ecco il re che mi informerà finalmente. Il signore leggeva. Ita tossì un po' intimidita, poi disse: scusi, signor re, vorrei un'informazione. Il signore dei bottoni d'oro alzò gli occhi dal suo giornale e borbottò: non sono il re, bambina sciocca, sono l'usciere. Che cos'è che vuoi? Ita si fece coraggio. Voglio sapere che cosa fanno i papà in questa grande casa. Bambina impertinente, si sentì rispondere. Sappi che qui si scrivono i semestrali, i mensili, i settimanali, i quotidiani, i bimensili e anche gli annali. E l'usciere si rimise a leggere il suo giornale. Così neanche questa volta Ita riuscì a sapere che cosa veramente si facesse nella grande casa. Che cosa sarà tutta quella roba che scrivono? Si domandava Ita mentre saliva sull'ascensore, dietro a un paio di scarpe gialle e a un pantalone grigio scuro. Speriamo che siano delle belle storie, non di quelle che fanno paura o di quelle che fanno piangere. E così, mentre Ita si domandava tante cose, l'ascensore era salito fino al 198esimo piano e si fermò. Ita ne uscì, dietro al pantalone grigio e alle scarpe gialle. Seguendoli, si trovò in un grande salone dove attorno a un tavolo c'erano tanti signori, tutti con i pantaloni grigi e le scarpe gialle, che scrivevano e parlavano fra loro. Per sentire meglio quello che dicevano e vedere quello che scrivevano, Ita si arrampicò su una sedia, poi sul tavolo. Il signore più vicino, che aveva i baffi neri e una cravatta rosso scuro, la vide e le disse: «E tu, piccolina, che cosa fai qua?» Ma quando Ita si disponeva a spiegargli che era arrivata con i panini perché voleva vedere che cosa succedeva nella grande casa, baffi neri le disse: «Arrivi giusto in tempo, tieni! Fa la punta alla mia matita. Vedi quella macchinetta? Ecco, devi solo girare la manovella.» Ita con la macchinetta, tracca tracca tracca tracca tra, fece una bella punta alla matita, che era quasi grande come lei, e la riportò a baffi neri, che la riprese distratto. «Brava!» disse il vicino di baffi neri, che aveva anche lui dei grandi baffi ma biondo rossiccio. «Fa la punta anche alla mia, vuoi?» Così, mentre i signori seduti attorno al tavolo parlavano e scrivevano, Ita faceva la punta alle loro matite. Dopo un po' che lavorava alle matite, Ita vide arrivare un grande piatto tutto pieno di panini. I signori attorno al tavolo, continuando a scrivere e a discutere, se li mangiarono in un battibaleno, senza guardare nemmeno di che cosa fossero imbottiti. Ita, vedendo arrivare i panini, Si era aspettata un coro di elogi compiaciuti e invece vide i panini scomparire dietro ai baffi senza un commento, che fossero con il salame o con la frittata, con la galantina o con il salmone. Ita ne fu sorpresa e molto delusa e si rimise, pensierosa, a far la punta alle matite. Ita lavorava e ascoltava. E mentre ascoltava, diceva a se stessa: ho fatto bene a venire qua. Adesso ho un lavoro ed è un lavoro importante. Sono io che faccio le punte alle matite che scrivono i quotidiani e i settimanali, i bimensoli e i semestrili e anche gli annali. E si diceva anche: sono stata brava a partire da casa, dove si fanno le solite cose così banali come panini, polpette, tisane e coperte. Di notte, Ita dormiva fra le scartoffie rimaste abbandonate sul tavolo. La mattina presto, prima che arrivassero i signori con i baffi, smontava la sua macchinetta per far punte alle matite e la puliva a dovere e buttava via i ricciolini di legno che trovava dentro. Quando arrivavano i panini, ne mangiava anche lei un pezzettino, dicendo più forte che poteva: «Mmm, che buono!» Ma nessuno ci faceva caso. Ita lavorava, trocco, trocco, trocco, trocco, trocco, trocco, e ascoltava. 20 giovani scienziati australiani inventano, dopo anni di ricerche, gli occhiali trasparenti. Un virile giovane atleta salta 2 metri e 60 centimetri e batte così tutti i record. 5 valorosi cacciatori svizzeri abbattono alla mitragliatrice tutti gli stambecchi del Jura. Il ministro della salute inaugura oggi il nuovo manicomio dotato di 200 milioni 600 mila celle individuali blindate. Ogni tanto la sala si svuotava e si riempiva di altri signori con altre matite. Ita lavorava, tracca tracca tracca tracca tra, e ascoltava. Sembra ormai sicuro che le oche del Campidoglio fossero grigie, afferma un gruppo di studiosi sudafricani. 3 ricercatori giapponesi, con l'aiuto di un cervello elettronico, sono riusciti dopo anni di ricerca a determinare la frequenza della nota do bemolle nell'opera di Rossini. Ita lavorava, tracca tracca tracca tracca tracca tracca, e ascoltava. Ita si annoiava. Non capiva moltissimo di quello che si diceva, ma incominciava ad accorgersi che non erano cose interessanti. Si annoiava ed era anche molto delusa. Far la punta a tutte quelle matite che scrivevano tutte quelle cose noiose non era poi così interessante come l'era sembrato i primi giorni. E poi Ita si domandava come mai, in tutto quel tempo, nessuno avesse mai detto né scritto una sola parola sul villaggio, né sulle mamme, né sui bambini, né sui panini. Eppure se li erano mangiati voracemente, regolarmente e distrattamente, 2 volte al giorno. Quando un giorno Ita chiese a Baffi Grigi: «Perché, signor Baffi Grigi, non parlate mai dei panini nei vostri settimanali?» Baffi Grigi le rispose: «Zitta, piccola stupidella, non vedi che qui si parla di cose serie? Perché ci secchi con i panini? Chi se ne infischia dei panini? E poi impara, si dice settimanali.» Ita ne fu scandalizzata. «Chi se ne infischia? Ma se non ci fossero, che cosa mangereste?» Ma Baffi Grigi non si disturbò nemmeno a risponderle. Ita quella notte non riuscì a dormire. Qui si parla degli uomini che saltano 60 centimetri e di quelli che contano i do bemolle. Ma del villaggio, dove si fa tutto quel lavoro con tutti quei panini deliziosi e le marmellate e le tisane e le coperte di lana, possibile che nessuno ne parli? Indignata, la mattina dopo, Ita non pulì la macchinetta. In silenzio, seduta fra gli incartamenti, aspettò l'ora dei panini per salire sul vassoio, infilarsi poi nella cesta di tovaglioli da lavare e tornare al villaggio. A casa, la mamma Dita era terribilmente preoccupata della sua assenza. E la nonna e le cugine, le zie e le vicine accorsero al suo arrivo con grida di gioia. «Ita, dov'eri?» dicevano in coro. «Sono stata nella grande casa, adesso so che cosa succede». E Ita si mise a raccontare ogni dettaglio del suo soggiorno nella grande casa degli iscritti. E raccontò, raccontò, raccontò quello che dicevano, quello che facevano, quello che scrivevano. Raccontò dell'arrivo dei panini e dell'indifferenza nella quale venivano ingoiati. Raccontò che nessuno aveva l'aria di sapere che il villaggio esistesse, che non se ne parlava per niente. Raccontò che Baffi Grigi le aveva detto che se ne infischia dei panini. Le vicine venivano a vedere Ita tornata a casa e ascoltavano. E Ita ricominciava la sua storia ogni volta che ne arrivava una nuova. Ben presto la storia di Ita fece il giro del villaggio, non si parlava d'altro. Mentre facevano i panini, le mamme ci ripensavano, costernate. Più nessuna, oramai, aveva voglia di provare nuove ricette e alcune, scoraggiate, incominciavano a mettere nei panini tutti i giorni gli stessi ingredienti. Quando alle 12 e alle 7 spingevano svogliate il panino davanti alla porta, non si domandavano più con diffidenza e invidia che cosa c'era nel panino davanti alla porta accanto, ma se vedevano la vicina si mettevano a commentare con lei le novità riportate da Ita dalla grande casa. Appassionate alla discussione, qualche volta lasciavano passare l'ora e correvano all'ultimo momento a fare alla meglio un panino d'emergenza. Dopo qualche giorno apparvero, davanti ad alcune porte, panini non imbottiti. Negli angoli delle strade del villaggio e nelle piazze c'erano a tutte le ore gruppetti che discutevano e tentavano di capire. E fu dopo 16 giorni dal ritorno di Ita che a mezzogiorno si videro nel villaggio le prime porte senza panino. Da quel momento successe una cosa strana e meravigliosa. Il villaggio si mise a crescere. Le mamme e le nonne, le zie e le bambine, le case e le seggiole, e le staccionate, i camini, gli orologi, i letti, tutto cresceva un pochino alla volta. Un giorno gli uomini, dalle finestre della grande casa, videro spuntare il villaggio fra le ortensie. E alcuni mesi dopo il villaggio era un villaggio normale. Lo stupore fu grande. Baffi Grigi e Baffi Neri erano paonazzi dall'indignazione. Prima lo sciopero dei panini e adesso anche questo? Ma dopo un po' di tempo passò allo stupore e passò allo scandalo. Poi, lentamente, incominciarono a vedersi per le strade del villaggio alcuni papà che giocavano con i bambini e altri che lavoravano insieme alle mamme. Ita e tutti gli altri bambini ne furono molto felici. Avete ascoltato Rosa di Sera, favole per diventare di tutti i colori che volete. Per contattarci scrivete a rosadisera@autoproduzioni.net. Rosa di Sera su Radio Virus, il lunedì e il giovedì alle 21:00.